se vogliamo essere tutti più sicuri bisogna andare tutti più piano e quindi cominciare a realizzare anche interventi sullo spazio stradale che rallentino la velocità delle auto. Andare al 1° gennaio, completamento della segnaletica, realizzazione di alcuni interventi, perché evidentemente per trasformare tutta la città ci vorranno anni, però sono interventi pilota che ci indicano anche qual è la direzione in cui vogliamo andare, e poi un rafforzamento della campagna di comunicazione, e quindi cominciamo anche a ragionare bene sui comportamenti in strada in vista del 1° gennaio, quando si cominceranno anche a fare sanzioni. Questi mesi sono stati dedicati prevalentemente, come detto, al cambio della segnaletica, quindi diciamo che fare un bilancio sui comportamenti delle persone, un bilancio basato su numeri in un momento in cui ancora si sta cambiando la segnaletica verticale e orizzontale nella città è direi prematuro. Possiamo fare un bilancio sull'interesse dei cittadini, che è molto alto, c'è molto dibattito, molti hanno risposto al questionario che abbiamo diffuso, abbiamo ricevuto oltre 12.000 risposte, di cui credo oltre 9.000 compilazioni complete. Era un questionario piuttosto impegnativo e l'argomento Città 30 è comunque un argomento su cui ci si confronta molto. Io riscontro anche che c'è una attenzione alla velocità in alcuni tratti, in alcune zone della città, quindi vedo che il messaggio sta passando, però chiaramente dobbiamo aspettare di avere tutta la segnaletica completata, il che dovrebbe avvenire entro il mese, e poi anche di cominciare a vedere, a discutere di questi interventi che ci mostrano come la città si può trasformare.